Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Negli ultimi 3 anni sono stati messi in orbita 400 nanosatelliti, il quadruplo che nei 10 anni precedenti. Parliamo, come dice il nome, di satelliti molto piccoli, massimo 10 kg di carico, ma nella maggior parte si tratta di satelliti da 1 kg, che si rifanno allo standard CubeSat, un sistema modulare composto da unità cubiche da poco più di un litro di volume che possono essere anche unite tra loro a formare sistemi più complessi. Uno dei vantaggi dei nanosatelliti e che grazie alle loro dimensioni possono essere usati come, diciamo, tappabuchi, andando a riempire gli spazi liberi lasciati a bordo di razzi e vettori orbitali dal carico principale. Ma la diffusione di questi nanosatelliti negli ultimi anni, pensate che addirittura alcuni gruppi di radioamatori sono riusciti a farsi il proprio nanosatellite privato, ebbene, tutto questo ha fatto nascere l'esigenza di mettere appunto lanciatori ad hoc, nanolanciatori per nanosatelliti, potremmo dire. Ne parliamo con Jonathan Puglia, che è amministratore delle legato di Leaf Space, una startup italiana con base all'incubatore I3P del Politecnico di Torino, che sta lavorando su Primo, un razzo ultraleggero dedicato ai micro e nanosatelliti. Buonasera Puglia. Buonasera. Senta, voi di Leaf Space avete come obiettivo lo sviluppo di servizi dedicati a questo segmento dei nanosatelliti. In realtà state lavorando su vari filoni. Ecco, prima di parlare del razzo ultraleggero, c'è un altro progetto più pronto, diciamo così, che è Leafline. Se ce lo puoi descrivere intanto questo brevemente. Sì, Leafline è un servizio di telecomunicazione innovativo per appunto dedicato alla tecnologia microsatellitare. Si tratta essenzialmente di sviluppare queste 20 stazioni di terra, quindi antenne, a livello globale, per centralizzare poi tramite software, una piattaforma online, il servizio di telecomunicazione e quindi essenzialmente il trasferimento di dati dallo spazio alla terra. Ecco, ci vogliono tante antenne sparse per tutto il pianeta in modo che ci sia sempre un'antenna in grado di captare il satellite ovunque si trovi mentre orbita, evidentemente. Ecco, questi servizi che sono ampiamente sviluppati per i sistemi satellitari più importanti, diciamo così, nel mondo dei nanosatelliti non erano ancora presenti. Ci si arrangiava un po'. Sì, esatto. Diciamo che ci sono anche esigenze diverse, si parla di costellazioni molto più grosse per i microsatelliti perché costano di meno e quindi si riesce a mettere in orbita un numero di satelliti molto più alto e quindi anche le antenne devono essere di più per coprire questa nuova esigenza. Benissimo, allora veniamo a questo invece lanciatore per nanosatelliti che si chiama Primo. Come è fatto? Descrivicelo. Allora, è un mini lanciatore, quindi si tratta sempre di circa 13 metri di altezza. Sì, è un diametro di circa medio di un metro, quindi una specie di tubo di queste dimensioni, ecco. Ha le forme prettamente di un lanciatore, quindi rimane... il tipico razzo, diciamo, sì, no? Sì, esatto, il tipico missile messo in verticale. Diciamo un peso che si aggira attorno alle 13 tonnellate e può portare appunto in orbita un oggetto che è circa il volume di una lavatrice. Di una lavatrice del peso massimo di 50 kg, giusto? 50 kg sì, in orbita polare, che è l'orbita un po' più pesante da raggiungere. Ecco. A 700 km, giusto, 700 di altezza chilometri. In questo caso. Esatto. Ecco, è un razzo a due stadi. Qual è la strategia di utilizzo? Si discute sempre se debbano essere monouso o multiuso, no, questi lanciatori. Certo. Allora abbiamo fatto questa valutazione internamente e effettivamente abbiamo riscontrato che per i lanciatori molto grossi, vediamo SpaceX piuttosto che altri lanciatori di grosse dimensioni, la riutilizzabilità è sicuramente il futuro, perché si tratta di oggetti molto pesanti e molto costosi. Per quanto riguarda invece il nostro lanciatore, che è un ultraleggero, diciamo della classe ultraleggera, l'analisi ha fatto vedere che producendo in massa questo lanciatore, si parla di 15 lanci all'anno, quindi veramente una produzione di massa rispetto a quello che si fa oggi, è più conveniente la produzione in serie sostanzialmente, sì, l'usa e getta, diciamo, sì, in questo caso. Ecco, sì. quanto costa nelle vostre previsioni lanciare un carico pieno e quali sono oggi i costi di lancio mediamente? Sì, allora diciamo che funziona sempre allo stesso modo, nel senso più massa lanci, quindi più il carico è pesante, meno paghi l'unità di peso, certo. Sì, esatto. Quindi ci si aggira attorno agli 8-10 mila euro al chilogrammo per i satelliti molto grossi si arriva ai 30-40 mila euro per, al chilo, sempre per invece i satelliti più piccoli come i microsatelliti CubeSat, ecco. In generale il nostro costo posizionamento è questo qua, infatti, sì, no? Esatto, sui valori di mercato. Sì. Quindi non è tanto una competizione sul costo del lancio quanto sulla flessibilità. Sì, sulla flessibilità e sul raccogliere molto bene le richieste degli operatori di microsatelliti, che appunto andando a buttare in orbita costellazioni molto vaste hanno bisogno che siano messe nel posto giusto questi microsatelliti, cosa che non accade appunto quando attualmente. Si prende un passaggio, diciamo, sostanzialmente da un altro lancio che ha le sue cose da fare. Sì, va dove va lui, esatto. Sì. Grazie Jonathan Puglia. È stato un piacere, arrivederci. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.